Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Cresce ancora l'inflazione in tutta l'area euro, in Italia prezzi in rialzo del 2,6%. Strauss-Kahn oggi davanti al giudice a New York e in Francia spunto un altro caso di 9 anni fa. Attesa per il risultato elettorale in Italia, si è già aperti fino alle 15, in Sardegna si vota anche per il nucleare. La NASA ci riprova oggi, fra 2 ore il lancio dello Shuttle Endeavour. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Mentre c'è attesa per i risultati delle elezioni amministrative che arriveranno nel pomeriggio, c'è preoccupazione per gli ultimi dati sull'inflazione che ad aprile è salita in Italia al 2,6% dal 2,5% di marzo e addirittura al 2,8% nell'area euro. Il tasso annuo nel nostro paese è il più alto da novembre 2008 e a spingere i prezzi al rialzo sono stati soprattutto i carburanti. Ad aprile la benzina è cresciuta dell'11% su base annua e dell'1,3% su base mensile. Ancora più marcato il rincaro del gasolio, che è cresciuto di quasi il 19% rispetto ad un anno fa, e del GPL più 20% in un anno. Ed ora un'ampia pagina sul caso Strauss-Kahn. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale comparirà oggi davanti ad un giudice a New York e si difenderà con vigore, hanno detto i legali. Strauss-Kahn è stato arrestato, lo ricordiamo, sabato sera a New York dopo che una cameriera in un albergo di lusso lo aveva accusato di violenza sessuale. Un amico che lavora al Sofitel mi dice che la polizia ha arrestato Dominique Strauss-Kahn. È firmato Jonathan Pinet, simpatizzante del partito di Sarkozy, il post su Twitter, il primo tra tutti a dare la notizia. A girare l'informazione a Pinet sarebbe stato un dipendente dell'hotel. Resta invece protetta l'identità della presunta vittima, una cameriera di 32 anni che dal Sofitel, tengono a precisare, si tratti di una dipendente seria che da 3 anni era assunta nell'albergo. Sabato la donna ha raccontato di essere stata aggredita da Strauss-Kahn, che si trova in stato di fermo in una cella di Harlem. Ci sono particolari che fanno la differenza in questa storia, ad esempio il fatto che dopo il presunto tentativo di stupro Kahn sia corso verso l'aeroporto JFK. Con Air France aveva un accordo per sedersi in prima classe senza prenotazione su qualsiasi aereo della compagnia. Fa impressione questo contrasto. Fa impressione anche sentire le parole di Sarkozy quando gli dice di comportarsi bene a Washington, di non prendere l'ascensore da solo con le stegiste, perché in America non scherzano con questo genere di cose. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Strauss-Kahn, che ha consentito all'esame del suo DNA perché, hanno detto gli avvocati, vuole collaborare alle indagini, respinge naturalmente ogni accusa. Intanto riemergono storie dal passato molto simili a quella raccontata dalla cameriera newyorkese. Questa che sentite tra pochi secondi è la testimonianza di una giornalista francese, Tristan Bannon, che nel 2007 raccontò in TV di un tentato stupro da parte di Kahn avvenuto nel 2002. Mi ha dato appuntamento in una via che non conoscevo. Io sono andata per l'intervista, l'appartamento era vuoto, c'era una televisione, un videoregistratore e un letto. Gli ho dato la mano, lui dalla mano è passato al braccio, ha tentato di toccarmi, è finita in modo violento. Io l'ho respinto a calci, ma lui ha tentato di slacciarmi il reggiseno e di togliermi i jeans. A un certo punto ho urlato stupro, ma non si è impressionato. Questa appunto è la testimonianza che abbiamo sentito raccontata in TV nel 2007, ma su fatti che risalgono al 2002. Ieri Strauss-Kahn avrebbe dovuto incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel e oggi sarebbe stato a Bruxelles, dove si riuniranno i ministri dell'economia degli stati dell'area euro. Quali sono i temi sul tavolo? Quali sono anche gli impatti di questo caso? Sentiamo in diretta dalla capitale belga Antonio Pollio Salimbeni dell'agenzia di stampa Radio. Dunque Antonio, allora partiamo dai temi di cui discuteranno oggi all'Eurogruppo. Il tema dominante naturalmente è la Grecia, per capire se ci sarà un aiuto ulteriore al governo di Atene e quando soprattutto. Viene dato per scontato che sarà sdoganato, sarà adottato in prestito di 78 miliardi complessivi di euro al Portogallo, su questo non c'è nessuna discussione, mentre da stamattina ci sono voci negative per il caso irlandese. Il governo di Dublino aveva chiesto già da tempo uno sconto all'onere del prestito, circa l'1%, per poter pagare circa l'1% in meno, e ancora le trattative non sarebbero giunte a buon fine su questo. Antonio, a tuo parere come si svolgeranno i lavori? L'Unione Europea ha assicurato che non ci sarà nessun impatto da questa vicenda, da questo scandalo. Qual è il tuo parere invece? Certamente, qui la Commissione Europea pochi minuti fa ha detto ufficialmente che i programmi di aiuto cui partecipa il Fondo Monetario per un terzo, in tutti e tre i casi aperti, non subiranno, non avranno conseguenze. Il problema, e questa è una risposta diciamo ovvia, è chiaro che qui si apre il problema chi sarà il nuovo direttore generale del Fondo Monetario, anche se formalmente mi pare che al momento non sia ancora dimesso, c'è stata una sospensione di fatto. Qui a Bruxelles, alla riunione dei ministri dell'Eurozona e domani dell'Ecofin, parteciperà uno dei direttori generali e quindi il Fondo Monetario sarà adeguatamente rappresentato. Il problema non è questo. Io penso personalmente che al di là di un po' di bagarre, di tensione, di incertezza in questi primi giorni, è importante l'uomo, ma è più importante l'istituzione che rappresenta, soprattutto se è solida. Quindi non credo che ci sarà un problema di assenza del Fondo Monetario dalla scena dei prestiti all'Eurozona. Bene, grazie ad Antonio Pollio Salimbene. Quindi, come dice l'Unione Europea, nessun impatto sui piani di salvataggio, ma naturalmente vedremo. Ma a proposito di impatti, sentiamo queste notizie che influenza hanno sui mercati. Linea Deborah Rosciani, che ha da poco concluso una puntata di Salva Danaio in diretta dal Salone del Libro di Torino. Ciao Deborah, buongiorno. Buongiorno Enrico e a tutti gli ascoltatori. L'impatto è piuttosto brusco per le borse europee. Non tutti gli operatori sono convinti che sia esattamente la notizia dell'arresto di Dominique Strauss-Kahn a far scendere stamattina pesantemente il mercato. Di fatto però sono soprattutto le banche a perdere particolare terreno, perché oggi evidentemente le banche, che hanno una vasta esposizione sui titoli greci, si aspettavano appunto notizie più confortanti su questo secondo pacchetto di aiuti per la Grecia, che avrebbe dovuto essere esaminato proprio in sede europea. Comunque Parigi perde l'1,44%, Francoforte -1,32%, Londra -0,90%, Milano perde un punto. Tutti i titoli bancari indistintamente perdono parecchio terreno, come vi dicevo prima. E sulla notizia dell'arresto di Dominique Strauss-Kahn, questa mattina ha avuto anche un movimento appunto piuttosto negativo l'euro sul dollaro. L'euro è scivolato fino a 1,40,45 sul biglietto verde, adesso ha recuperato a 1,41, e questo è il quadro di borsa. Enrico. Grazie Deborah Rosciani, noi rimaniamo al Salone del Libro di Torino con la nostra inviata. È da qualche anno che vanno di moda nell'editoria gli esordienti. A dare il là era stato Paolo Giordano, che con La solitudine dei numeri primi nel 2008 lanciò un vero mega seller. Qui al Salone del Libro ci sono due casi editoriali 2010-2011, due ragazze alle prese con il giallo. Lorenza Ghinelli con Il divoratore ha scalato rapidamente le classifiche. Sentiamo il suo consiglio per chi ha un romanzo nel cassetto. Ci deve essere la voglia di farlo uscire dal cassetto, cercare quelli che sono gli editori che consideri seri, quindi parlo anche di piccoli editori non a pagamento ovviamente, quindi editori che credono, sono disposti a credere in quello che una persona fa. Dall'altra parte un'altra giovane esordiente, Alessia Gazzola, autrice di L'allieva, un romanzo con protagonista una studentessa di medicina legale che somiglia però più a Bridget Jones che a Kay Scarpetta. Ecco il suo consiglio per i giovani aspiranti scrittori. Innanzitutto di curare moltissimo la forma, di leggerlo un'infinità di volte fino a quando non lo conoscono a memoria, di non aver paura di demolirne pezzi interi se sanno che può uscire migliorato. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Adesso andiamo all'estero. Una nave proveniente dall'Egitto con aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza è stata fermata dalla marina militare israeliana e costretta ad invertire la rotta. La nave era partita dalla Grecia l'11 maggio e aveva fatto tappa in un porto egiziano nel Sinai settentrionale. Infatti ieri, nella giornata in cui si ricorda la creazione dello Stato di Israele nel 1948, ci sono stati scontri e vittime per quella che i palestinesi ricordano piuttosto come la Nakba, la catastrofe, per sottolineare che non rinunciano a quello che considerano un diritto, il ritorno ai villaggi lasciati in Israele. I palestinesi avevano indetto manifestazioni lungo i confini di Israele. Il bilancio sarebbe di almeno una decina di uccisi sul confine libanese e altri 10 sulle alture del Golan. Saluto l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, che ci ha raggiunto. Ciao Ugo, buongiorno. Buongiorno. Allora, come dobbiamo giudicare questa vicenda? La chiudiamo qua o avrà risvolti anche nei prossimi giorni, prossime settimane? No, in generale finisce con la celebrazione della Nakba, come succede tutti gli anni, anche se questa volta ha avuto delle caratteristiche particolarmente diverse. Però potrebbe non finire, perché la Siria potrebbe usare comunque questa cosa per fini interni, cioè cercare di sviare un po' l'attenzione dalle brutalità commesse dal suo regime, per cercare di ricordare al mondo arabo che esiste ancora Israele e che esiste l'occupazione dei territori. Perché che la Siria abbia in qualche modo manovrato su questa cosa sembra scontato. Dal 1973, dall'ultima guerra arabo-israeliana, sul Golan non è mai stato sparato un colpo. I siriani non hanno mai permesso a nessuno di avvicinarsi alla frontiera con Israele. Quindi, se è stato concesso ad alcune migliaia di profughi palestinesi, evidentemente la Siria aveva il suo interesse. Detto questo, il problema palestinese c'è, e quindi la Siria, come probabilmente anche altri paesi arabi in difficoltà, cercheranno di ricordare ai manifestanti che scendono nelle piazze arabe, che combattono contro i loro stessi regimi, che esiste sempre questo problema. Senti, tutto ciò naturalmente ha una importanza. La Lega Araba, che da ieri ha un nuovo segretario generale, è il ministro degli esteri egiziano, che prende il posto del connazionale Moussa. È importante questa elezione o cambia poco? No, non cambia nulla, perché stiamo a discutere su che cosa conta l'Unione Europea, la Lega Araba è zero, cioè la Lega Araba è totalmente ininfluente. Certo, essere segretario generale della Lega Araba è una posizione molto importante, molto autorevole. È sempre stata egiziana questa posizione, del resto, perché l'Egitto è sempre stato il paese arabo più importante, con più massa critica sotto tutti i punti di vista. Però la Lega Araba è totalmente inafferente, al punto che quest'anno, non è la prima volta, quest'anno è stata il vertice della Lega Araba è stato rinviato perché appunto non c'erano leader che andassero e non se ne è accorto nessuno. Bene, grazie a Ugo Tramballi. Arrivano notizie sempre dal Medio Oriente, dove il Presidente della Repubblica Napolitano oggi è in visita all'autorità nazionale palestinese, e Napolitano ha detto che i palestinesi avranno un ambasciatore a Roma. Seconda parte di GR24. Tra le notizie più importanti, oggi abbiamo parlato dell'inflazione che cresce in tutta l'area euro, ha raggiunto il 2,8%, in Italia i prezzi sono in rialzo del 2,6%. Strauss-Kahn, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, oggi sarà davanti al giudice a New York. Intanto in Francia spunta un altro caso di 9 anni fa di un tentativo di violenza sessuale. C'è attesa naturalmente per il risultato elettorale in Italia, i seggi sono aperti fino alle 15, ne parleremo tra poco a GR24. Oggi la NASA ci riprova, anche di questo parleremo tra poco. Fra 2 ore, poco meno di 2 ore, ci sarà il lancio dello Shuttle Endeavour. Prima di parlare delle elezioni abbiamo alcune notizie da poco arrivate in redazione. Il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha detto di non avere ricevuto altre candidature per la presidenza della Banca Centrale Europea, oltre a quella del governatore di Banca Italia, Mario Draghi, notizia di poco fa. E sempre di pochi minuti fa arriva un'altra notizia da Bruxelles. Il procuratore della Corte Penale Internazionale, Moreno Ocampo, ha chiesto un mandato d'arresto contro Gheddafi per crimini contro l'umanità. E come vi dicevo, adesso ci occupiamo delle elezioni, del risultato, non ancora naturalmente del risultato elettorale. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Scheppis. Siamo in attesa, Alessandra, dell'affluenza alle ore 12, che mi pare non sia ancora stata comunicata. Alessandra. Sì, sull'affluenza il dato più aggiornato è quello del 22 di ieri sera, indica un calo del 2% rispetto alle precedenti consultazioni, sia per le comunali che per le provinciali. Per il rinnovo dei consigli provinciali ha votato il 40,9% contro il 43,5% dell'ultima tornata. Per le comunali il dato è superiore, 51,9% degli aventi diritto è andato al seggio contro il 53,9% delle elezioni precedenti. Riflettori puntati soprattutto su quattro sfide: Milano, Torino, Napoli e Bologna, dove potrebbero esserci riflessi del risultato a livello della politica nazionale, degli equilibri interni ai vari partiti. E qui c'è da sottolineare come sia cresciuta l'affluenza a Torino e a Milano, mentre in calo a Bologna e a Napoli. Alle 15 avrà inizio lo scrutinio senza soluzione di continuità fino a definizione del risultato. Dalle 16 alle 22, con cadenza circa ogni 30 minuti, saranno resi noti i risultati delle proiezioni effettuate da diversi istituti. Gli eventuali ballottaggi per le province e comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si svolgeranno domenica 29 e lunedì 30 maggio, mentre nei comuni sotto i 15.000 abitanti si vota invece a turno unico. E da Roma è tutta, voi la linea. Grazie ad Alessandra Scheppisi. Vi ricordiamo che oggi Radio 24 seguirà l'esito del voto, nel pomeriggio GR più lunghi per informarvi con maggiore puntualità dalle 17 alle 18.30, il primo speciale, poi questa sera nuovo speciale dalle 21 a mezzanotte. Noi parliamo di un referendum, quello che stanno votando i sardi sul nucleare. Il risultato non è ovviamente ancora noto perché si vota fino alle 15, ma l'obiettivo primario è raggiunto. Il referendum consultivo regionale della Sardegna sul nucleare ha raggiunto e superato il quorum di un terzo dei votanti. Esulta quindi il comitato promotore sardo, guidato da Bustiano Cumpostu, fondatore anche del comitato Sardegna Nazione Indipendenza. Ai sardi si chiede se sono contrari all'installazione sul suolo regionale di centrali nucleari e siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti. La loro risposta avrà quindi un impatto squisitamente locale, ma poiché il referendum nazionale abrogativo di giugno è ancora in forse dopo la moratoria di un anno imposta dal governo al programma nucleare nazionale, non son pochi gli interessati al risultato, dall'una e dall'altra parte della barricata. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ha patteggiato un anno di reclusione senza la sospensione della pena un uomo di 48 anni che per 8 mesi ha perseguitato Michel Hunziker con biglietti minacciosi, pedinamenti e appostamenti. Il Tribunale di Milano ha stabilito che Pietro Pingitore debba rimanere agli arresti domiciliari. Ed entra nel vivo a Winchester in Inghilterra il processo per omicidio ai danni di Danilo Restivo, il 39enne potentino accusato in Italia di aver ucciso Elisa Claps. A seguire il processo, ma oggi c'è anche la mamma di Elisa, Filomena. Per gli investigatori Restivo avrebbe ucciso il 12 novembre del 2002 Heather Barnett, la sua dirimpettaia, il cui corpo è stato ritrovato straziato nel bagno di casa con ciocche di capelli fra le mani. Restivo si è sempre dichiarato innocente, il verdetto è atteso entro 2 mesi. Ed è tutto pronto a Cape Canaveral, dove alle 14.56 dovrebbe partire lo shuttle Endeavour. Buongiorno a Gigi Donelli, ho utilizzato il condizionale perché questo è un lancio che è stato già rinviato una o due volte, Gigi. Assolutamente, condizionale d'obbligo. Buongiorno Enrico, 1:34 netti in questo istante il conto alla rovescia della NASA per quest'ultima missione di Endeavour, che come dicevi è stata rimandata addirittura mentre gli astronauti erano praticamente ai piedi del grande razzo, penultima missione di una storia formidabile, di una storia che ormai dura da più di 30 anni e che apre anche sul futuro il cambiamento della strategia spaziale americana. Lo ricordo, a bordo l'equipaggio di 6 astronauti, tra i quali Roberto Vittori l'italiano, anche un formidabile esperimento AMS, il cacciatore di antimateria, che di fatto è il più grande esperimento mai portato in orbita, 2 miliardi di dollari, ma soprattutto di fatto 16 anni di lavoro, 600 ricercatori, insomma un enorme progetto per provare a compiere un grande balzo in avanti nel campo della ricerca di base. Enrico. Grazie a Gigi Donelli, e quindi seguiremo nel pomeriggio tra poco, potremmo dire, perché poco prima delle 15 il lancio, se tutto andrà per il verso giusto. Prima di chiudere questa edizione di GR24, un paio di notizie. La prima arriva dalla città del Vaticano. La Chiesa ha il dovere di dare una risposta adeguata ai casi di abuso sessuale su minori commessi da preti, tenendo conto delle disposizioni delle leggi civili. Così si legge in una circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, inviata alle conferenze episcopali per elaborare linee guide contro la pedofilia, frasi che arrivano all'indomani della vicenda genovese con un sacerdote rimosso proprio per accuse di pedofilia. Il prete è stato rimosso dal suo incarico, una decisione tempestiva, ha detto il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. E proprio su questo caso leggiamo insieme una notizia che ci dice che Don Riccardo Seppia si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP durante l'interrogatorio di garanzia. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Ringrazio in regia Fabio Cantadori. La prossima edizione del nostro giornale radio in onda alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.